Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Nel 2016, attraverso il mare e i porti italiani, sono transitati 480 milioni di tonnellate di merci. Dati che rendono il nostro paese leader della Blue Economy nel Mediterraneo. L'economia blu comprende tutte le attività legate al mare, compresi il trasporto, la logistica e la portualità, ma anche quelle indirettamente connesse. Basti pensare che ogni euro prodotto dalla Blue Economy ne genera quasi il doppio. Di questo si è discusso a Livorno durante il secondo forum nazionale sulla portualità e la logistica, facendo il punto proprio sull'attuazione del piano di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema mare, un segmento fondamentale per l'economia nazionale. Nel settore operano infatti 160.000 imprese, che impiegano oltre 1 milione di addetti. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E oggi ci occuperemo, come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, di porti. Questo perché qualche giorno fa c'è stato a Livorno un importante momento di verifica sullo stato di salute dei porti italiani, una verifica anche in funzione del prossimo G7 dei trasporti che si terrà in Sardegna nel prossimo mese di giugno, e noi abbiamo ascoltato un po' la voce dei protagonisti di questi porti, dei nuovi protagonisti delle autorità di sistema, ma innanzitutto voglio presentarvi il nostro ospite in studio, che è Francesco Mariani, vicepresidente di Assoporti. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, fra un po' cominceremo ad ascoltare le voci che abbiamo registrato nel porto di Livorno, però io comincerei subito da una sua provocazione che è emersa proprio nel corso di questo dibattito. La nave non cerca la banchina, ma cerca le merci. Ecco, una sorta di riferimento all'importanza del mercato. Assolutamente, nel senso che la nave e quindi il traffico individua i quei territori che producono merci. Cioè, noi possiamo fare le banchine più belle di questo mondo, ma se non riescono a concentrare su quelle banchine le merci, le navi non arriveranno comunque, e abbiamo speso soldi inutilmente. E questo è un dibattito molto importante nel momento in cui c'è una riforma così importante come quella della portualità, di cui parleremo nel corso di questa puntata. Ma proprio a proposito di riforma, ascoltiamo cosa ci ha detto Antonio Cancian, presidente di RAM, la rete autostrade mediterranee, organizzatrice di questo evento di Livorno, a proposito del ruolo di RAM all'interno del futuro delle autorità di sistema. RAM dovrebbe fare da tramite con il territorio per cercare di implementare quello che è stato deciso dal punto di vista legislativo e cercare di costruire quei progetti di fattibilità tecnico-economica che sono la somma tra il master plan progettuale e il business plan economico-finanziario. Questo è quello che deve fare la RAM, quindi incentivare, stimolare, aiutare, diciamo, le realtà locali affinché questi progetti di fattibilità vengano a galla e con questi si apre il mercato. Quindi mi sembra in linea con le sue posizioni. Importante è il mercato che regna sempre anche nel mondo dei trasporti, anche perché i trasporti sono un po' il termometro dell'economia del paese. Sì, i porti soprattutto sono il termometro, nel senso che crescono col crescere dell'economia, risentono della crisi dell'economia. Quindi quando si parla dei porti guardando al loro tonnellaggio, occorre guardare innanzitutto al loro retroterra industriale. Certo, è quello che c'è dietro. E a proposito di quello che c'è dietro, ascoltiamo anche il nuovo presidente dell'autorità di sistema del Tirreno Centrale, quindi di Napoli, Pietro Spirito. Parliamo dei porti della Campania, perché l'autorità portuale coordina i porti di Napoli, Salerno e Castellammare. Napoli e Salerno sono i due porti più rilevanti, ovviamente hanno due storie distinte. Salerno è un porto dal perimetro limitato che ha sviluppato di molto il traffico, e Napoli ha avuto una criticità nella governance che è durata molto a lungo. Questi porti ora si trovano a poter gestire, nel mondo che sta completamente cambiando, con le grandi aggregazioni delle compagnie, in particolare nel settore del container, con quindi le tre grandi alleanze, una grande opportunità, perché mentre la principale alleanza 2M legge Napoli, le altre due alleanze, di Alliance e Ocean Alliance, invece leggono Salerno. Quindi abbiamo la fortuna, come porti della Campania, di poter crescere in modo complementare, quindi garantendo un'offerta di crescita in entrambe le due portualità. Mariani, il tema del dragaggio è un tema che riguarda un po' tutti i porti. Se ne è parlato molto negli anni scorsi, si è parlato molto del fatto che nei nostri porti non potevano attraccare le nuove grandi navi portacontainer perché i fondali erano troppo bassi. Sono due argomenti distinti. Il primo riguarda il dragaggio e devo dire che il governo è intervenuto, in particolare col sottosegretario Velo, che ha predisposto e ha fatto passare misure che hanno mutato in senso positivo l'approccio con i dragaggi. Abbiamo ancora un po' di problemi perché sono molti i passaggi, però si è snellito molto la procedura. L'altro aspetto delle grandi navi riguarda il fatto che non tutti i porti possono pensare di raccogliere grandi navi, nel senso che le scelte devono essere scelte ancora una volta legate al mercato, anche perché le mega navi scelgono pochi approdi. Ascoltiamo anche Stefano Corsini, presidente dell'autorità di sistema del Mar Tirreno Settentrionale, quindi Livorno e Piombino. I prossimi investimenti saranno intanto la Darsena in Europa, che come sapete è in, diciamo, in corso di realizzazione. Poi ci sarà sicuramente degli investimenti sul porto di Piombino per far installare la General Electric con le sue nuove attività industriali, e questi saranno gli investimenti più importanti. Peraltro a Livorno si stanno, diciamo, sbloccando con i loro tempi alcune iniziative che sono per me da tempo, tipo quella dei bacini portuali, quella della privatizzazione di Porto 2000, che quindi renderà l'azienda più efficiente in relazione al traffico crocieristico, e quello del porto turistico su cui si sta ragionando da tanto tempo. Mariano, un po' quello che dicevamo prima, ognuno deve scegliere la sua vocazione, c'è chi deve fare crociere, chi deve fare merci, chi deve fare transshipment, e noi abbiamo un importantissimo porto italiano di transshipment, quindi in qualche modo c'è bisogno di specializzazione anche con le autorità di sistema. C'è bisogno soprattutto, ed è questa la ragione della riforma del piano nazionale della logistica e della portualità, di definire una corretta programmazione. Lo Stato non può essere in concorrenza con se stesso, non possiamo immaginare di fare gli stessi investimenti infrastrutturali a distanza di 100 chilometri, avere tutti il terminal crociere, tutti il terminal container. Queste sono scelte che vanno compiute appunto collegandoci al mercato. Se un privato invece intende, come dire, fare l'investimento, occorre tappeti rossi e assolutamente aiutarlo, ma lo Stato non può sbagliare gli investimenti infrastrutturali devono avere anch'essi una loro redditività. Spostiamoci in Sicilia, Andrea Annunziata, neopresidente dell'autorità Mare Sicilia Orientale, quindi Catania e Augusta, ci racconta un po' la situazione nell'isola. Come dappertutto ci sono problemi e tante questioni da risolvere, però è un tesoro quella la Sicilia, è una grande miniera, e se tutti remano nella stessa direzione avremo delle grandi sorprese. È un territorio con gente meravigliosa e, come dicevamo, al centro del Mediterraneo, risolvere dei problemi infrastrutturali e di organizzazione significa dare risposte importantissime alla Sicilia, all'occupazione, all'economia, agli imprenditori, ma anche a tutto il sud e a tutta l'Italia. Chiudiamo invece con il mare Adriatico, con l'Alto Adriatico. Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema del mare Adriatico, che è un po' una porta tra est e ovest dell'Europa, ascoltiamolo. Tra l'est e l'ovest, dove l'est è sia Far East, ma anche quell'est del Mediterraneo che per noi è importantissimo, che è la Turchia. Quindi da questo punto di vista, se, come stiamo facendo, si lavora per diventare uno dei punti, dei nodi importanti di queste vie della seta di cui si parla tanto, non dobbiamo dimenticare che esiste un corridoio est-ovest che vede nella Turchia, secondo me, una piattaforma logistica naturale. Noi, essendo un punto di gateway per quelle che sono le merci che arrivano nell'Europa centro-orientale, stiamo potenziando tantissimo la componente ferroviaria. Ci sono in questo momento 77 milioni di euro tra CIPE ed RFI, più 27 milioni dell'autorità portuale, quindi 104 milioni che noi investiremo per potenziare l'attuale stazione di Campo Marzio, che è la stazione di riferimento dell'attuale traffico ferroviario, ma per potenziare anche le due vecchie stazioni, ma che andremo a recuperare, di Servola ed Aquilinia. Siamo in chiusura. Francesco Mariani, vicepresidente di Assoporti, qual è il giudizio complessivo del mondo del mare su questa riforma così importante del sistema che si sta portando, anche se lentamente, a compimento? Direi che è un giudizio positivo perché va nella direzione di fare sistema, di mettere in rete, noi siamo stati come operatori portuali, diciamo, che operano in quest'ambito, a guardare il mare e avere le spalle al territorio. Occorre fare anche un'operazione inversa, avere le spalle al mare ma guardare il territorio, quindi in una capacità di relazionare le diverse modalità, di riuscire a superare appunto le criticità, di cogliere l'ultimo miglio, di fare gli investimenti per superare i colli di bottiglia, avviarci quindi in una logica davvero di sistema. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli